Europa è Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Europa@radio24.it. Ancora un buongiorno, un saluto da Gigi Donelli, da Gianmarco Ferronato in regia. Un buongiorno naturalmente ancora una volta da tutta Radio 24 in questo sabato che conclude in parte, diciamo, una settimana europea ancora una volta molto ricca, una settimana segnato da molta attesa per un nuovo discorso che il primo ministro britannico Theresa May aveva appunto fissato nella città di Firenze, un discorso che l'ha portata a ribadire in realtà alcuni concetti come quello per il quale la Gran Bretagna, dice Theresa May, ha detto Theresa May, ha deciso di lasciare l'Unione Europea, ma intende restare partner dei paesi europei, dall'economia alla lotta contro il terrorismo, al tema dell'emergenza immigrazione. Allora sentiamo. This is a negotiation. There will be, during that process, sides put out their positions, discuss those positions and come to an agreement. Il primo ministro britannico, insomma, ha insistito su questo aspetto. È un negoziato che a questo punto, lo ricordiamo, va avanti da un anno più due mesi e mezzo, insomma da quel giugno ormai del 2016 in cui la decisione è stata presa con una maggioranza chiara, non amplissima, ma chiara. La Premier May a questo punto ha ribadito e ha proposto ufficialmente che il periodo di transizione per applicare quanto concordato con l'Unione Europea sia di 2 anni. Occorrerà del tempo, ha detto, per introdurre nuovi sistemi, regimi concordati. Basti pensare alla questione del controllo dei confini, che richiederà una registrazione dei cittadini residenti nel Regno Unito che continueranno a vivere e lavorare nel paese, ha detto Theresa May, aggiungendo che la scelta sulla transizione dovrà dare la certezza a tutti che non durerà a lungo, cosa che ha fatto alzare parecchie sopracciglia, visto che appunto la sensazione di molto è che stia durando più a lungo di quanto non avesse previsto la stessa Londra. Ma comunque, la Premier britannica ha anche detto, a proposito della fattura di Brexit, cioè del costo vivo dell'operazione, ha detto: onoreremo gli impegni contratti durante la nostra presenza nell'Unione Europea e nessun paese dell'Unione dovrà soffrire per dei buchi, diciamo, di bilancio UE. Theresa May non ha però evocato nessuna cifra nei giorni scorsi. Si è parlato di 20 miliardi di euro per coprire i 2 anni di transizione. C'è poi, e non poteva mancare ovviamente essendo tutto questo accadendo a Firenze, una nota specifica per noi italiani. Theresa May ha detto: voglio reiterare a tutti gli italiani e ai cittadini UE che vivono nel Regno Unito che vogliamo che restiate, siete preziosi per noi e vi ringraziamo per il vostro contributo. Così Theresa May appunto a Firenze ieri, aggiungendo che intende garantire i diritti dei 600.000 italiani residenti oggi tra Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord. L'Europa dunque che riapre i temi classici, insomma anche le discussioni, le sue debolezze, riparte dall'immigrazione, dalla Brexit e poi introduce di volta in volta temi nuovi, temi che magari qualcuno aveva pensato, e quando dico qualcuno non penso a qualcun altro, penso magari anche a noi stessi, temi che potevano essere stati risolti. Uno di questi, chiaramente forti di questa settimana, riguarda l'appuntamento della fine della prossima settimana a Barcellona e nel resto della Catalogna, appunto sul referendum che Barcellona, o meglio la parte separatista di Barcellona, chiede e che la parte non separatista e la Spagna intera rifiuta. Ma facciamo un po' il punto dei temi principali in L'Europa degli altri di Sergio Nava. Buongiorno, oggi L'Europa degli altri si apre con un focus importante sulla Brexit. Ieri, lo sapete, l'atteso discorso della Premier britannica Theresa May a Firenze, del quale abbiamo ampiamente parlato. Oggi vogliamo portarvi un punto di vista importante e alternativo, quello della Scozia. Ai microfoni di Radio 24 parla infatti Fiona Islop, segretaria per gli affari esteri del governo di Edimburgo. Sentiamo cosa ci ha detto. Vogliamo assicurarci che la Gran Bretagna resti il più possibile vicino all'Unione Europea, dichiara Fiona Islop. Siamo in favore del mercato unico e dell'unione doganale. Stiamo lavorando duramente per convincere il governo britannico. Finora non ci sono stati molti progressi, ma a ottobre dovrebbe partire il coinvolgimento di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. È stato finora molto frustrante, ammette. Abbiamo fornito suggerimenti e idee a Londra, ma il governo britannico non ha ancora avviato consultazioni significative con la Scozia. Personalmente ritengo che un periodo di transizione abbia senso, anche se permane il rischio di un'uscita di Londra senza accordo. Infine, su un possibile secondo referendum di indipendenza scozzese, noi abbiamo detto che daremo alla gente la scelta una volta che la Brexit sarà chiara e definita. Ora non è il momento per un secondo referendum, dice a Radio 24 il ministro degli esteri scozzese. Ed è sempre altissima a proposito di indipendenza e pulsioni indipendentiste l'attenzione sul referendum catalano. Grande eco nella penisola iberica hanno avuto le parole del presidente della commissione Juncker, intervistato dal canale Euronews, parole che sono state interpretate in modo diverso, anche a seconda dell'orientamento politico. Juncker ha sostanzialmente tenuto la linea decisa a Bruxelles, forzatamente pilatesca. In sintesi, la commissione rispetta ciò che dicono il Tribunale Costituzionale spagnolo e il Parlamento spagnolo. Se si arrivasse a un sì all'indipendenza catalana, la Commissione lo accetterebbe, ma Barcellona dovrebbe rimettersi in coda per rientrare nell'Unione Europea. E infine, per chiudere, le riforme in Europa possono essere un problema, almeno in Francia, dove, mentre l'esecutivo Philippe porta avanti la riforma del diritto del lavoro, come riporta la televisione All News BFM, una raffica di scioperi e mobilitazioni di piazza è in corso e in programma fino al 10 di ottobre. Camionisti, pensionati, dipendenti pubblici e sostenitori dell'ex candidato presidente di estrema sinistra Mélenchon, il popolo che si oppone ai cambiamenti in materia di lavoro promette di bloccare la Francia. E anche per oggi è tutto, a voi la linea. Grazie anche a Sergio Nava. Dunque, Brexit, Catalogna, Francia, e noi torniamo appunto tra la Spagna, tra Madrid e la Spagna di Barcellona, la Spagna catalana. Nel frattempo c'è stata una presa di posizione piuttosto esplicita da parte dell'Europa nella persona del presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani. Dice: ha ragione il governo spagnolo, perché questo referendum è contro la Costituzione spagnola, ovviamente, e anche contro le norme catalane. Aggiunge: questo referendum non ha nulla a che vedere con quello che si farà in Lombardia e in Veneto, quello è per l'autonomia, questo per la secessione. Ma sentiamo da Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, qual è appunto la prospettiva di Bruxelles di questa vicenda. Ufficialmente negli ambienti comunitari la vicenda della Catalogna è ritenuta una questione puramente domestica. Nessuno vuole occuparsi di un caso politicamente delicato, se non addirittura dirompente. Un diplomatico usa un'espressione colorita: sono tutti con la testa sotto la coperta. Il timore è che la vicenda catalana possa far scattare reazioni simili. La Francia non deve fare forse i conti con l'autonomia bretone? L'Italia con quella padana? E il Regno Unito con quella scozzese? Qui a Bruxelles, nelle prossime riunioni ministeriali, l'evolversi della situazione in Spagna non sarà neppure in agenda. La speranza di alcuni osservatori europei è che a un certo punto il dialogo possa tornare in auge. La speranza è tutta da verificare sul campo. Ma la diplomazia comunitaria, pur preoccupata dalla vicenda, continua a considerare l'indipendenza della Catalogna improbabile. È un'aspirazione alla libertà o una forma di egoismo? E se fosse egoismo, siamo davvero certi che non sia in realtà questo lo strumento da perseguire in politica? Lo abbiamo chiesto a Barbara Di Salvo, autrice tra l'altro di In difesa dell'egoismo, edito da Rubettino. E questo è il problema, la sussidiarietà, perché le sfere sociali sono una dentro l'altra, cioè noi dobbiamo capire quali sono gli interessi, in questo caso dei catalani, allora, che è una qualsiasi comunità locale, perché qualsiasi comunità locale è una sfera sociale più piccola e delimitata dal territorio in cui risiede. Quindi dove ci sono questi cittadini, o in questo caso i catalani, sono all'interno di una comunità locale che ha dei propri interessi specifici. Ma non sono solo lì, sono anche all'interno della Spagna e sono anche all'interno dell'Europa, se vogliamo allargarci ancora all'intera umanità, perché a seconda degli interessi che vengono coinvolti. Perché funzionino queste sfere sociali e non si sovrappongano le competenze, ci deve essere, è assolutamente necessaria la sussidiarietà, il che significa che ognuno si deve occupare solo ed esclusivamente degli interessi di dei membri di quella società, degli interessi diretti, perché bisogna trovare il modo di coordinarle senza che si sovrappongano in modo inefficiente. Tutti vogliono occuparsi di tutto. Il tema della sussidiarietà, così legato all'istituzione europea, torna al centro della riflessione. Adesso viabilità e poi torniamo con altre notizie legate all'Europa, naturalmente non solo. Europa, Europa. Ancora buongiorno da Gigi Donelli, da Gianmarco Ferronato. Ripartiamo dal premio Cittadino Europeo 2017. Lo facciamo in musica. Si potrebbe andare tutti quanti al mare a Viareggio. Si può prendere il treno alle 9, sia lì per le 10. Ci si ferma in un bar a comprare la schiaccia o ceci. Ah già, che scemo, c'è qui Jacopino e non ce la fa. Jacopino è Jacopo Melio, la sua onlus Vorrei prendere il treno è tra i vincitori del premio del Cittadino Europeo 2017, un progetto nato nel 2014 quando un tweet di Jacopo rimbalzò di social in social, trasformandosi prima in un articolo ironico, poi in un'organizzazione vera e propria. Oggi conta 600 soci, 400.000 sostenitori. L'obiettivo è quello di affrontare l'inaccessibilità dei servizi pubblici. Sono molti i traguardi raggiunti dalla Onlus italiana, creata appunto dal ragazzo di Lazzereto, Cerreto Guidi, quindi Toscana. Lo abbiamo sentito chiedendolo intanto perché si è messo in questa sfida. Perché essendo disabile comunque si sperimenta tutti i giorni una inaccessibilità non solo architettonica ma anche culturale, perché poi si vedono ovunque, ad esempio, macchine parcheggiate sui marciapiedi o peggio ancora nel parcheggio degli disabili senza l'autorizzazione. Una battaglia culturale che in qualche modo, a tuo avviso, sta cominciando a incidere nella cultura italiana? Insomma, le cose migliorano oppure no? Sì, con i nostri tempi ovviamente, che non sono proprio velocissimi, però già il fatto che l'inisabilità se ne parla molto più spesso e sicuramente parlarne più spesso aiuta e permette alle persone di entrare un po' meglio nei panni degli altri. In una battuta, c'è un paese dell'Unione Europea che secondo te può essere un modello, magari non perfetto, ma comunque cui ispirarsi? La Germania sicuramente, non tanto per una questione architettonica, ma per una questione di servizi. Un disabile come me, che domani vuole andare a vivere da solo, in Italia fa un'estrema fatica perché dovrebbe pagarsi da solo un assistente domiciliare 24 ore su 24, mentre in Germania non solo questo viene concesso, ma c'è un personale qualificato che ti segue. Insomma, c'è uno stare accanto alla persona che da noi molto spesso manca. E complimenti davvero a Jacopo, dunque a Jacopo, ma anche a tutti gli altri del suo gruppo, della Onlus, lo ricordo, Vorrei prendere il treno Onlus, e anche a tutti gli altri che hanno vinto questo premio. Sono 50 in Europa, trovate i dettagli sul nostro sito. Rimanete curiosi, imparate dal mondo, la curiosità è ciò che spinge a esplorare nuove opportunità professionali e ambienti diversi e ad essere creativi. Questo è il presidente della BCE, Mario Draghi, ieri durante un dialogo al Trinity College di Dublino. Many young people in the euro area are still in education or are not actively seeking employment. Molti giovani dell'area dell'euro stanno ancora studiando o non stanno cercando attivamente un impiego. Le possibili e significative conseguenze sociali ed economiche di questa situazione sono ancora più rilevanti se esaminiamo le nuove misure di utilizzazione del lavoro, tenendo conto sia dei disoccupati, sia dei giovani che non stanno più studiando o seguendo un periodo di formazione. Nel 2016, infatti, circa il 17% delle persone tra i 20 e i 24 anni dell'area dell'euro non erano né occupati, né studenti, né apprendisti. Around 70% of people between the ages of 20 and 24 in euro area. È entrato in vigore in settimana, al 21, l'accordo CETA, l'accordo di libero scambio UE-Canada, che apre opportunità, dice il ministro Martina, e viene anche criticato da molti. Per alcuni è una grande opportunità per l'agroalimentare italiano, per altri il cavallo di Troia che consentirà alle multinazionali più spazio di manovra in Europa. In ogni caso, da giovedì è entrato in vigore in via provvisoria il CETA, il trattato di libero scambio tra Canada e Unione Europea. Da subito il Canada ha così tagliato i dazi di oltre il 90% sui prodotti alimentari e del 98% sugli altri e ha accettato di tutelare 143 prodotti DOP e IGP europei, tra cui 40 italiani. Alle imprese si apre anche il mercato dei servizi in Canada, quelli marittimi, la movimentazione di container e il trasporto logistico all'interno del paese. Sarà anche più facile, soprattutto per architetti e ingegneri, lavorare in Canada grazie al mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali. Se quanto detto è entrato in vigore da subito, il CETA resta un accordo misto, cioè deve essere comunque votato da tutti i parlamenti degli Stati membri. Se avverrà, solo allora entreranno in vigore le discusse norme sui tribunali speciali per le cause tra stati e aziende private. Laura Cavestri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fanno più fatica a trovare lavoro. Quando lo trovano, lavorano di più delle altre colleghe europee, guadagnano meno dei colleghi maschi, non accedono ai posti di potere. Sono le donne italiane e il loro rapporto con il lavoro. La Commissione europea rilascia un rapporto in cui si invitano gli Stati membri a colmare il gap di genere come elemento non solo sociale ma economico. Anche in questo caso tutti i dettagli sul sito. Adesso sentiamo Silvia Bernardi. All'inizio facciamo molta fatica a trovare un lavoro e nel nostro paese 7 milioni di donne in età lavorativa un lavoro non lo trovano proprio. Una volta entrate c'è il divario di genere, cioè quella forbice molto ampia dove una donna arriva a guadagnare anche la metà di un uomo nel settore privato e circa il 23% in meno nel settore pubblico. Poi c'è il tetto di cristallo, quella sottilissima ma resistentissima pellicola che separa le donne dai posti che contano. E ad incorniciare il tutto ci sono le politiche del lavoro. Pensate che nel marzo del 2000 a Lisbona i paesi europei decisero un piano sull'occupazione femminile, intesa non solo come una questione di genere, ma come vero e proprio volano per l'economia nazionale. I paesi partirono da poche ma precise considerazioni, perché se la donna lavora entra più ricchezza in famiglia, a patto che ci sia un sistema di servizi sociali adeguato, aumenta il reddito e nascono più bambini. Fu deciso, era il 2000, che l'obiettivo era raggiungere 10 anni dopo, nel 2010, quota 60%, cioè il 60% delle donne dovevano per quella data risultare impiegate. A che punto siamo nel 2017? Ancora lontani, soprattutto in Italia, dove lavora il 51% delle donne. Ma altrove va decisamente meglio, come ad esempio in Danimarca, dove la percentuale supera il 70%. E come se non bastasse, non solo abbiamo i tassi di occupazione femminile tra i più bassi d'Europa, ma in Italia le donne che lavorano lo fanno più di tutte le altre. Ogni giorno, compresa la domenica, una donna italiana lavora tra casa e ufficio 7 ore e 26 minuti, un tempo superiore appunto a molti paesi europei, circa un'ora e 10 minuti in più ad esempio rispetto ad una donna tedesca. Nella strategia per l'uguaglianza tra uomini e donne, la Commissione europea sottolinea, parole testuali, l'importanza di migliorare la partecipazione economica delle donne, evidenziando come la disparità di genere nel mercato del lavoro debbano essere progressivamente eliminate per ridurre il rischio di esclusione sociale e di povertà delle donne e per ottenere una crescita inclusiva. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha lanciato l'anno scorso un nuovo obiettivo, quello di raggiungere la parità entro il 2030. Dal 2000 si è passati al 2030. Speriamo che il gioco non sia quello solo di spostare in avanti la lancetta. In chiusura, un euro per un museo. Sono le giornate europee del patrimonio. Fino a domani sera, sentiamo. Musei a un euro questa sera in occasione delle giornate europee del patrimonio di oggi e domani e oltre 1200 eventi nei luoghi della cultura di tutta Italia. Per questa edizione 2017, alla quale oltre ai musei e luoghi della cultura statali hanno aderito anche vari musei civici, comuni, gallerie, fondazioni ed associazioni private, il filo conduttore è il tema prescelto dal Consiglio d'Europa, ovvero cultura e natura. Un argomento di grande attualità che permette di approfondire l'interazione dell'uomo con l'ambiente che lo circonda, colloca in un vasto arco di tempo dalla preistoria ad oggi. Le giornate europee del patrimonio sono state promosse a partire dal 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea con l'intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio culturale tra le diverse nazioni del vecchio continente. All'iniziativa aderiscono 50 paesi europei, tra cui l'Italia, che partecipa dal 1995. Valentina Catagnano, della Direzione Generale dei Musei. Poi ci aspettiamo veramente tantissimi visitatori che potranno partecipare a questa giornata, che appunto sono state istituite con uno spirito paneuropeo, e la grande affluenza di gente degli anni passati ci fa capire che queste giornate sono importantissime. Ci saranno anche delle aperture straordinarie di luoghi normalmente non aperti al pubblico e invito tutti i cittadini a visitare la pagina del Ministero beniculturali.it per informarsi sui luoghi che aderiranno all'apertura serale, apertura che di solito non avviene, dunque è un evento eccezionale. Ci sono iniziative, ad esempio possiamo ricordare quella di Villa Giulia, Spasso nel Tempo, oppure ancora la Biblioteca Braidense a Milano, un'iniziativa molto simpatica dal titolo Flower Power. In più ci sono 51 passeggiate patrimoniali su tutto il territorio nazionale, di cui 7 si svolgeranno a Venezia. Insomma, questo è lo spirito delle giornate europee del patrimonio. In programma anche voli dimostrativi in mongolfiera, come alla Reggia di Caserta, cacce al tesoro, come quella dei Longobardi al Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, letture animate, come quella per bambini tra i colori del Museo Nazionale di Villa Pisani a Stra. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora buone visite, buon fine settimana a tutti voi, da Gigi Donnelli al microfono, da Gianmarco Ferronato in regia, dalla redazione di Radio 24, Europa@radio24.it, la nostra mail, ci sentiamo settimana prossima.